come stai, cosa fai, come vivi senza me. Hai raccolto i tuoi capelli, proprio come piace a me. Sei felice, sei distesa, non intendo insieme a lui. Seminare tra le rocce la mia ultima pazzia da quando tu sei andata via. Io, se permetti, continuo ad amarti. Pensa a me, ti vorrei rubare gli occhi per cambiare la tua idea da quando tu sei andata via. Io, se permetti, continuo ad amarti. Io t'ho vissuta e continuo a sviarti. Bye.